da un pensiero scosceso, da una nebbia diffusa che mi soffoca l'anima. Ritornerò da un dolore nascosto che si nutre di me. Perde il mio tempo, con l'inganno lo chiama, per buttarlo via, per buttarlo via. Ritornerò da un pensiero tradito. Ritornerò da questa corrosione che si nutre di me. E mi annoda la gola e con l'inganno mi chiude in una vita non mia. Ritornerò la mia poesia che parlava da con la nostalgia si faceva colore ai viaggi in cui mentre pioveva in me nasceva primavera in un accordo di fa. Ritornerò a cantare storie come fossero vissute, come incollate Ritornerò da dove sono partito per rinascere ancora, perché c'è sempre un motivo per cantare alla luna, per sfiorare il profilo di chi amo davvero, per sentire il profumo di una notte d'estate spesa senza far niente. Ritornerò perché la vita è uno spazio in riva al mare e tutti prima o poi si fanno nuotare, e mentre cominci a navigare ritorni indietro a rovistare, rivedi sogni galleggiare, li prendi e li rinfreschi ancora un po'.